kill the winner. I don't get what they do it for. It's all so terribly vague. I see the pictures from a thousand years of battle, and I think it's such a bore. I walk New Orleans with a knife, like Nike hidden out of sight. But I'd be useless if they jump. Type Amanda Palmer ad aprire Sisterhood is Blooming, diciamo puntata numero uno di uno speciale, no? Special con qui in studio con me Eli Natali de Danza K. Buonasera a tutti. Che è anche insomma una voce che conoscete qui al martedì femminista e lesbico autogestito, visto che lei aveva un programma. Quanto tempo fa ce l'avevi, Eli? Oh, penso un paio di anni fa ormai. Si chiamava Witch is She. Insomma, ed era molto figa. Ed è la stessa ora. Sì, quindi sì. Ci siamo passate gli spazi e i tempi. E quindi stasera, insomma, puntata speciale, perché abbiamo in linea con noi tre delle fondatrici, sono quattro in tutto, delle fondatrici di una bellissima etichetta che si chiama Un Records. Ed è un'etichetta viennese fondata l'anno scorso, nel 2012, che ha base appunto a Vienna ed è una queer feminist record label, quindi insomma etichetta che produce e promuove musica queer femminista, quindi insomma non poteva non interessarci. E poi insomma devo dire che io sono venuta a conoscenza di questa realtà grazie ad Eli, che in qualche modo è entrata in contatto musicalmente con loro. Sì, loro ci hanno invitate, cioè ci siamo auto-invitate, diciamo, a suonare a Vienna, e abbiamo suonato con le Danze Okay a settembre, all'interno di un concerto, infatti, con un gruppo della loro etichetta, insieme a un altro gruppo newyorkese, The Shondells. E quindi ci è sembrato veramente una realtà molto interessante, quindi ho voluto, insomma, ti ho proposto infatti di fare un programma su di loro. Come sai, io ho accettato, anche perché Sisterhood is Blooming, lo spirito della trasmissione, anche di tutte le altre cose che faccio e che facciamo, perché insomma non è raro, come sapete, che ci siano più voci qui ai microfoni di Radio Onda Rossa, ma insomma in generale anche le cose che si organizzano è questo sostanzialmente. L'idea che sta sotto il progetto di Sisterhood is Blooming è di autopromuovere. E quindi quale migliore occasione per parlare con Aurora, Birgit e Petra? Che ci siete? Are you there? Hello? Hello? Hi, thank you for being here tonight with us. Thank you. Yeah, we are very excited. Ok, la prima cosa che volevamo chiedere, insomma, ci siamo un po', abbiamo un po' deciso insieme che cosa raccontare, farci raccontare, sì. Dalle Un Records, insomma, le definiamo così, com'è nata l'idea di una etichetta queer feminist, insomma, com'è nato questo progetto, insomma. Yeah, so the first question is we wanted to know how Un Records takes birth. What was what were the needs that you were answering by doing this project? We met in 2011 at a girls' rock camp in Austria. Yeah, and we knew each other before, but there we spoke about the idea to have a label, and we found out that more of us would like to have one, and so we started to organize this thing. Ok, quindi dicono che si sono incontrate un paio di anni fa a una girl rock camp, che sono queste realtà che esistono al di fuori dell'Italia. E nei posti civilizzati. Nei posti civilizzati, e quindi hanno parlato dell'esigenza, della possibilità di creare un'etichetta. Ma perché qui è feminist, insomma, la cosa che ci interessa è da dove viene l'esigenza di dare anche una connotazione così specifica, giustamente anche così precisa alle vostre produzioni. Sì, and so Donna says so why is it specifically feminist and queer? Well, that's a very important tag of your label. It's also on the website and all over the place. It's because we are all musicians as well, and we experience like a very male dominated music and stage world in Austria, but I think it's all over the world like this. Yeah, some things never change. Yeah, yeah, and so we thought, okay, we had to change this. Because there are many small labels which do not publish promote mainstream music, but they are really they only have male bands, and when I say male, I mean like. Not only bands which are mostly male musicians, but also bands which do not having like a female singer, but the instruments played by slam mostly. Yeah, and okay. They do not like they don't question things about how they perform or how they act on stage. And it's for us like queer is really like being against heteronormativity. Mm-hmm. You said, yeah. Okay, well, we'll translate this part for the moment. Yeah. So, we'll translate this. Quindi dicono le ragazze che sono tutte musiciste e che si sono confrontate sul fatto che la scena musicale lì, come in altri posti. Sì, infatti dicevamo alcune cose non cambiano, no? Sì, è dominata dagli uomini e comunque dal maschile e quindi anche magari se ci sono delle piccole etichette che non fanno musica mainstream, comunque sono tutti gruppi dove sono tutti uomini o comunque magari c'è la donna che è cantante e comunque non si pongono delle domande su... sul fatto di essere eterocentrati, magari. Sì, esatto. E, in effetti, insomma, dicevamo, questa è una cosa che non cambia mai, invece una cosa interessante, appunto, che vi proponiamo di andare poi a sbirciare da sole sul sito dell'etichetta di cui vi stiamo raccontando un po' insieme alle protagoniste, che è unrecords.me, quindi unrecords.me, è il fatto che molte di loro, insomma, sono non solo si occupano dell'etichetta e promuovono appunto la musica che fanno, ma sono musiciste, grafiche, insomma, suonano un po' di tutto, quindi e si scambiano anche le loro posizioni oppure mettono insieme altre band, altri progetti, side project, magari di insomma, band un po' più significative sulle quali si concentrano per poi scambiarsi anche questa loro capacità, quindi insomma è molto in un verissimo spirito, un fortissimo spirito riot, insomma, da no? Chissà, allora, una delle domande che ci eravamo poste, per esempio, era anche questo, cioè se loro sono mai, se sono state influenzate in qualche modo dall'idea, no? del riot movement, dal DIY, insomma, da quello che anche in Europa con una molta distanza temporale poi in qualche modo ha anche spinto, e soprattutto ha spinto la musica punk, che è molto presente sull'etichetta, che è appunto una dei generi musicali invece dove poi alla fine le donne riescono ad imporsi con maggiore facilità anche in Italia. Scusa, la domanda era un po' lunga, ma in realtà volevo sapere da loro sostanzialmente se un po' sono state influenzate dal riot movement, dalla tutta la cultura DIY, a me sembra di sì, da quello che fanno, e quindi insomma cosa pensano di questo. Yeah, so girls, Donna wanted to know if you as a label are influenced by the riot girl movement or how. Yes. Also, yeah, because there's lots of punk in on the roster of Unrecords. Yeah, I think the music is we are concentrating on rock music, experimental punk and noise music, because that's also music which as where it is where the musicians very often are male. Mm-hmm. Yeah, and mm-hmm. Of course the Riot Girl movement influenced us also as musicians. Yeah, and I don't think we would exist without that movement. No, it's like a role model. Yes. Thing. Sì, appunto loro confermavano che probabilmente non sarebbero esistite senza il Riot Movement, insomma un po' come molte altre realtà di questo tipo, insomma in Europa e nel resto del mondo, e sostanzialmente anche appunto ci descrivevano il tipo di musica che si può trovare nella loro etichetta, che è molto punk ma anche rock, sperimentale, insomma ci sono tantissime anche contaminazioni di generi, ci sono moltissime musiciste che suonano la batteria e il violino, oppure la chitarra e l'organo, quindi insomma ci sono molte contaminazioni interessanti all'interno dei lavori che troverete sull'etichetta che potete ascoltare. E, una cosa che ci aveva molto interessato era il fatto che abbiamo saputo, mi dicevi te, che in Austria c'è la possibilità di accedere a dei fondi per produrre dei progetti artistici. Così mi dicevano, sì. Esatto, te lo raccontavano loro. Quindi insomma sì. Sarebbe interessante capire anche come funziona questo loro rapporto con questi finanziamenti, mm-hmm. e quanto delle spese, insomma di quello che significa una produzione poi magari di un album o di un piccolo disco riescono a coprire con quello che arriva dai finanziamenti. Yes, Aurora and Petro, you told me that you could obtain as a label some funding from the Austrian government, and so we were wondering how this worked and how much you could cover of the expenses of the production of a CD with this funding, how it works. Okay, we didn't get everything you said. Okay, you didn't hear it? No, it just broke the... It was about the funding that you can obtain from the government. Yeah, okay. Mm-hmm. Mm-hmm. So can you cover the cost of you know, a whole production, or do you need... No, you cannot. Of course. It's also not from the government, it's from the collecting society in Austria, and you can get a little part of the production cost, mm-hmm. just to press the CD or vinyl, and you don't get it always. You can try to get it. So there is a little bit of money mm-hmm. there for productions of bands. Perhaps a bit more than in other countries, but it's not very much. Yeah, but still, our last releases didn't get any money. Mm-hmm. There's a little pot of money, and you can write and really do a lot of writing and say please. But still, there is, right now it got worse, so we didn't get money for the two releases. Oh, okay. For the two last releases. Okay. Non sono uscita a tenere tutti. It's not so good right now. Yeah, I think there's maybe more money, but from the regional government in outside of Vienna, because in Vienna, okay, there are many projects. Yeah, many projects, many artists, and so there's less money. Okay. Sì, insomma, dicevano sostanzialmente che in realtà sono dei piccoli finanziamenti ai progetti che ovviamente non riescono a coprire mai tutto quello che è la spesa di una produzione. Poi ci spiegavano che siccome a Vienna c'è una grande richiesta di questi fondi, insomma ci sono tantissimi progetti artistici che quindi chiaramente un po' competono tra di loro, è più difficile che magari in altre parti dell'Austria poi riuscire effettivamente ad avere questi finanziamenti. Non so se dicevano, se ho capito bene, che non hanno ricevuto nessun tipo sì, di finanziamento. Che loro ancora non sono riusciti a ottenere nulla, insomma, quindi in realtà è più una cosa, insomma, insomma un'idea che dovrebbe succedere, ma che ancora non è successa nel loro caso. Forse volevi... l'idea, insomma, un'altra domanda che ce l'ha un po' sarà come funziona, cioè come si entra nell'etichetta Thumb Records, insomma, per farla breve. Quindi c'è, in qualche modo, si può scrivere, mandare del materiale e poi, insomma, c'è in qualche modo una linea editoriale, no? Come si dice normalmente, insomma, c'è una scelta che si fa. Chiaramente è chiaro che, insomma, bisogna fare dei testi che non siano eteronormativi, insomma, che abbiano qualcosa, che dicano qualcosa rispetto al queer e al femminismo. Però, insomma, poi da un punto di vista musicale, c'è una selezione che fate, una preferenza? Come funziona? Yeah, so we were asking ourselves how a band can get on the Thumb Records roster. Is there of course there probably a selection with the due to lyrics, non-heteronormative lyrics, but is there also something more to do with the music? What is it you listen to? Could you repeat the last question or the last two questions? Yes, it was about how to get on the Thumb Records roster. Yeah. And what do you listen to? I mean, it mustn't be, of course, homophobic music or lyrics, but also is there something to do with the criterion of the music? What is it you listen to mostly? This connection is kind of broken. Pardon? Do you hear us? Yes, we can hear you, actually. Okay, yeah, okay. How you can get on record? Yes. Yeah, what are the criterions? Mm-hmm. What? What do you search for in the music? Yeah, it's very much kind of politically, and also like the performance, but it's still the music, as you said. We don't look for pop or singer-songwriter stuff, mm-hmm. and this kind of thing, mm-hmm. for the music, but it's also very much about not being we don't look for bands like all boy bands or like masculinities or the femininities, and yeah. Okay, but if I play folk music and with my ukulele or something, what do you think about me, even though I have, you know, very... what would you think about me playing, you know, trying to get into on records and playing my ukulele and folk music? Would you say yes? I think we... Not so easy. I think... not only the music, but more about, like, the person and all the thoughts that are behind and how you perform, actually. It's not like we don't take ukulele or singer-songwriter. It's not like, okay, you just play acoustic guitar and sing. And so, no. That's not the point, actually. But we like to search for more, like, noise and more, like, experimental, but it's just a... And rock. And rock, yeah. It's a musical frame, but it's mostly, actually, maybe there's more, like, the queer feminist thing about it, like, how do you perform and what is your background? And that's more important, actually. But we like to, like, the music frame is... We like to just... Because in Indiana, there are some labels that are quite nice, and they do... some pop and singer-songwriter. That's why we look for more like the rock and experimental stuff. So that's why the music, but and because we like it, of course. Okay, like, sure. Actually, it's more the political thing. It's more the reason. So we do exceptions like Les Reines Prochaines. They are not really rock or experimental or noise music, but we all very like them, so... Yeah, ok, hold on. L'avevo anche chiesto allora, insomma, appena non avevo tradotto, avevo chiesto, insomma, se io vengo a propormi alla Records con il mio ukulele, faccio musica folk, insomma, che cosa mi rispondereste? Quindi, insomma, poi magari... Sì, quindi hanno detto che sicuramente c'è un quadro musicale di riferimento che, appunto, quello che dicevamo è rock, noise, sperimentale, però forse è più importante, diciamo, l'aspetto politico, fra virgolette. Quindi, no, come performi, che cosa è il messaggio che vuoi portare? E... Sì, insomma, mi sembra che la cosa sulla quale, insomma, loro pongono più attenzione è sostanzialmente l'impatto live, quindi quello che tu racconti durante la tua performance e come ti proponi anche rispetto al pubblico. Quindi, insomma, probabilmente anche un fatto estetico, ma non nel senso superficiale del termine, ma insomma nel senso proprio di il messaggio che dai personalmente con il tuo corpo, con la tua persona. Infatti, sì, dicono poi che hanno fatto, rispetto alla linea dell'etichetta, hanno fatto un'eccezione con Les Reines Prochaines, che magari poi adesso andremo a sentire, che sono un gruppo, infatti, svizzero, che non sta per niente nella linea, diciamo, editoriale, come vogliamo chiamarla, dell'etichetta a livello musicale. Sì, esatto. È una buona idea. Possiamo, diciamo, farvi ascoltare un po' delle cose che LAM Records produce, quindi, insomma, mette in giro, e quindi anche attraverso noi, insomma, vi facciamo ascoltare le Reines Prochaines. Io parlo francese, quindi, insomma, la mia pronuncia è veramente pessima. Sono una band che suona da 25 anni, insomma, quindi hanno anche, insomma, sono da prima di che venisse nemmeno pensata LAM Records, però appunto poi le LAM Records hanno pensato, evidentemente affascinate non solo dal loro musica, ma soprattutto dalla loro performance e dal modo di presentarsi, le storie che raccontano, hanno pensato bene appunto di riproporle. Quindi abbiamo pensato di farvi ascoltare questo pezzo che si intitola Virus. If I was a virus and looking for a body, I'd rather choose my own, a place to me well known. I'd start in my feet and travel up the knees, cause my knees bend smoothly. Yes. If I was a virus, I would go into my body, cause my body is a nice place to be. A very good start, a really good start, could also be my heart, yes, would be my heart. It pumps my blood around, round, round, round, round, round. It creates a funny sound, sound, sound, sound. to me. I enter with a kiss through my lips, and then I'd be connected with my hips. Ooh, in my hips, it's really interesting. What I experienced there can't be told by singing. If I was a virus, I'd jump into my body, 'cause my body is a paradise. If I was a virus and looking for a body, I'd rather choose my own, a place to me well known. 'Cause in my bones I had much fun, in my veins I had to run, and in my eyes I had to see all that is surrounding me, and in my brain I had to be aware of electricity. Yes, yes, yes, ooh, yes, yes, yes, ooh, my brain. Ooh. Erano Le Rain Prochaine, ho detto bene? Esatto, sì. Virus, era molto divertente anche il testo, non so se avete colto delle insomma piccole frasi, dice: se fossi un virus sceglierei il mio corpo, perché il mio corpo è il paradiso, sì. E quindi insomma è molto carino. E l'album da cui è tratto credo questo pezzo, non vorrei sbagliarmi, comunque insomma l'ultimo album che è uscito a febbraio di quest'anno, appunto in cooperazione con la Records, intitola Blood. Ok, Blood. E quindi insomma io vi consiglio di andare che ad vuol ascoltare. Dire sangue. Che vuol dire sangue? Okay Blood. Sì. Ok. E insomma vi consiglio non solo di andare ad ascoltare sull'etichetta, ma anche appunto di comprare, guardare le date dei tour e di comprare appunto i dischi delle Rainbow Scene, che sono molto molto interessanti. Io insomma le ho scoperte grazie alla Records, quindi insomma è anche una bella cosa. Allora, are you there? Ci siete? Ah, ok. Ok. La prossima domanda che avevamo pensato era come la scena viennese, austriaca in generale, underground, quindi un po' loro ci hanno accennato, no? Il fatto che sono state spinte a fare questa etichetta perché la scena punk soprattutto è molto maschile, eccetera, eccetera, ma come funziona proprio in generale la musica alternativa? Quindi ci sono posti dove suonare, c'è interesse del pubblico, insomma c'è movimento, ci sono molte band, come funziona? Yeah, so Donna asks, how is the musical underground music scene in Vienna? So you said beforehand that there are many male bands, but are there many places where people can play? Is there an audience for this kind of music? We do not hear you at the moment. You can't hear me? But it's like how the underground scene in Vienna is like. Yeah, how it's like. Yes. Yeah, okay. Yeah, I think it depends on the music style, but in general, there are many alternative bands, like indie mm-hmm. rock bands, mm-hmm. and also many labels, many small labels. But if you really look at the roles of the labels, they are all more or less male dominated. Mm-hmm. Quindi dice che ci sono tanti gruppi che fanno indie rock e ci sono anche tante piccole etichette, però sono molte, sono dominate diciamo dagli uomini. Mm-hmm. Yeah, what about the audience? Is there a big audience for indie alternative music or many places where to play? Chiedo se ci sono, come il pubblico è molto attento a questa musica, se ci sono molti posti dove suonare. I just want to add that there's still a queer feminist scene, mm-hmm. and that's a really lively scene. Mm. There are really a lot of bands and also fanzines and magazines and festivals. Camp. Yeah, there's something going on, but it's not like it's not mainstream, but there really there's something going on. But like the audience, yeah, it's difficult because if you go to concerts or festivals like Christmas, there are a lot of people mm-hmm. and interested, but I have the feeling there are like kind of two worlds. There's this kind of mainstream, and there's also this indie, also the small labels, which are indie and mostly male, more like mainstream. But I would say in Vienna, there's really the feminist scene is small, but really lively. So. Oh, okay. Quindi diceva che c'è una certa scena femminista queer, ci sono tante band di ragazze, ci sono tante fanzine e c'è un certo pubblico che è grande, però ovviamente è sempre piccolo relativamente, diciamo, al resto della scena underground, che comunque è abbastanza vivace a Vienna. Ok, e parlavamo anche del networking, insomma, del fare rete, che ovviamente è anche uno dei motivi per cui il gruppo come quello che vi avevamo fatto ascoltare prima poi entra e fa una produzione in collaborazione con le Arm Records. Come ha funzionato, cioè come funziona la vostra costruzione di rete, insomma, come sta funzionando anche il concerto di Dance OK e tutte le altre cose che riuscite a organizzare, insomma, come vi organizzate, come funziona? We're wondering about the networking that the label is doing right now, because you've been, how did you get into contact with Les Reines Prochaines, and you organized our concert, Dance OK concert in Vienna. So how is that working? Networking, well, we just understood the networking. Every time you speak to us, the connection is broken. I don't know why, but it's really we should hear half of what you asked me. Sorry. But the question is about the networking. Okay. Yeah. Mm-hmm. Okay. We can, or I can say that like the queer feminist scene is it doesn't depend on national borders. So it's really cool. I think you know that it's not such a small scene, but in comparison with like I don't know the indie music scene, it's a small scene, and so it's I think easy to network beyond the Austrian borders. Quindi dice che la scena femminista yeah. è queer non ha frontiere. E quindi anche se poi è piccola relativamente alle altre, comunque ha una grande forza di networking perché va al di là delle frontiere nazionali con questo comune denominatore appunto del femminista e queer. Yeah. And you were saying? yeah. We didn't get everything, but I continue that as we all work or live as musicians, we have this musical background, let's say, and we have contacts we got over the years with our bands and ex-bands. And for example, Birgit with First Little Kiss, this band exists for 10 years now. Mm-hmm. And so she has like 10 years of contact, yeah. And playing outside of Austria and... So that's like an advantage we have because we are in as musicians in this business, and so of course then you know a lot of people would do music as well, and yeah. Okay, e dicevano appunto che comunque alcune band come First Petal Kiss, insomma, esistono da molti anni, quindi insomma poi negli anni suonare in giro e incontrare le altre donne, insomma, alla fine sostanzialmente poi crea anche una rete poi di contatti reali, non solo virtuali ma proprio fisici, che comunque ti permette poi di conoscere le altre artiste e quindi di scambiarti le cose. E diceva anche che moltissime di loro la maggior parte di loro hanno un background musicale, nel senso che poi lavorano nella musica, insomma, non è tra virgolette una passione soltanto, ma è proprio un vero e proprio modo di guadagnarsi da vivere, insomma, che questa è anche una cosa fichissima. Sì. Dobbiamo sottolineare e risottolineare 4-5 volte. Che non ce la sogniamo qua. Ce la dobbiamo sognare solamente, insomma. Ok. Posso chiedere questa cosa delle reine prochaine? Yeah, I wanted to know if you can hear me. Can you hear me? Yes. Well, how did you get into contact with Les Reines Prochaines? Did they contact you, or how did that happen? Yeah, they wrote us. Uh-huh. I think they found us on internet because there are not so many mm-hmm. feminist labels, mm-hmm. and they had a production. The production was already finished. They had already finished all the production work and. They were searching for a label that they liked, I think, and so, yes, very nice. Okay. Nice. Quindi dice che le Reine Prochaine, che sono questo gruppo, diciamo, storico che esiste da 25 anni in Svizzera, le ha contattate perché le ha cercato su internet, le ha trovate, non ci sono così tante label. Sì, avevano già pronto praticamente il disco, insomma, sì. Era già stato prodotto, quindi stavano cercando poi, insomma, un'etichetta con cui uscire, quindi sì. Bellissima questa. Sì, questa mi sono piaciute loro. Bellissimo, perché non ci sono molte etichette qui femministe, insomma, in giro per l'Europa. Intanto diciamo delle cose proprio papabili, nel senso, per esempio, qualche data in programma, qualche uscita che sta, insomma, a cui possiamo dare un po' di attenzione, qualcosa di nuovo. Yeah, what are your next releases? What's happening next at On Records? Can you hear me? Yeah. Okay. The next release will be Matrix. It's a noise rock duo from Vienna, mm-hmm. and they will release in April, mm-hmm. and we want to book a tour for June, so maybe in June you can see them live in Italy. Yeah, hopefully. Ok, la prossima uscita è ad aprile di Matrix, che è un progetto rock noise, e quindi loro sperano che saranno in tour a giugno e che magari potremo sentirli in Italia. Sì, beh, sentiamole adesso intanto, perché abbiamo appunto la possibilità di sentire in anteprima qualcosa di Matrix, quindi insomma ci ascoltiamo questo pezzo intanto che si intitola Planter Kid. Yeah. E questa è la Matrix Plento Kid, che è appunto l'uscita imminente insomma, della Anne Records. Intanto avevamo pensato di farvi ascoltare un paio di altri brani appunto di artiste dell'Anne Records, e intanto lasciamo del tempo alle nostre amiche Aurora Berghitti e Petra per pensare a una domanda che ci era venuta, cioè pensiamo, costruiamo l'identikit della perfetta rocker femminista e queer, come ce la immaginiamo, come la descriviamo? Sì, quindi we want to let people listen to a few other bands of Anne Records, but in the meantime, as we let the track play, we want to ask you, can you hear me? Yeah. Yeah. Okay. The identikit. So what the feminist queer rock musicians. The perfect. The perfect. Yeah. Feminist queer musician. What does she look like? What does she sound like? So you think about that during the next track. Okay. Yeah. And yeah. And say a few words about First Fatal Kiss that we're gonna play. Yeah. Soon. Can you present First Fatal Kiss? Appunto, gli abbiamo fatto questa domanda e stiamo chiedendo se possono spendere qualche parola su questa band che è molto bella. Io ve l'ho fatto ascoltare anche nella scorsa puntata, che si chiama First Fatal Kiss, e insomma che è anche una band che suona da 10 anni e della quale fa parte Aurora, se non sbaglio. Birgit, mi sa. Oh, Birgit, ok. Did I get it? L'hanno capito? Yeah, could you present First Fatal Kiss? Yes, it's me, Aurora speaking. Mm-hmm. And yeah. I can present them as a fan because I saw them first on the Lady Fest in Vienna in 2008. Mm-hmm. I think, no, 2007. Sure. And I saw them in an autonomous, autonomous squad in Vienna. And it's called the EKH. Aurora le ha viste, le presenta in quanto fan, che l'ha sentite suonare per la prima volta nel 2007 in una Lady Fest in uno spazio autonomo che si chiama EKH? Yeah, ok. And they, I think they said about themselves, or say that they sound like a bit new wave, but in a musical way, but they are a political band full of irony, and that what I like best. Quindi era un po' musicalmente, era un po' new wave, però diciamo che a livello politico erano impegnate, che è quello che gli è piaciuto molto del gruppo. Quindi. Okay. Ok, quindi andiamo a sentire, lo dici, lo pronunci tu il nome del pezzo, perché è un po' più... Qual è il nome del pezzo? Wirtschaft. Wirtschaft. Che vuol dire economia. Ok, loro sono First Fatal Kiss. Auf der Suche nach einer neuen Berufung. quindi siamo qui con tre delle componenti, delle fondatrici della Un Records, qui a Sisterhood is Blooming insieme a Elina Tali. In chiusura del martedì femminista e lesbica che ho gestito questa sera, non vi ho dato i numeri anche perché insomma il numero è occupato, quindi stiamo chiacchierando in diretta con Vienna. Quindi mentre le nostre amiche pensano alla perfetta rocker sperimentale noise queer feminist, magari ci facciamo presentare da Petra, anche visto che dovrebbe essere lì, sì, no? Il suo progetto e anche il brano che abbiamo scelto. Yeah, we were you still thinking about the profile of the perfect musician, feminist, queer, etc., etc. And we're going to send the next track from Petra Underwolf. It's track number 5. I haven't got the title. Do you remember the name of the title of the track number 5 on Petra Underwolf's album? Disco. Disco. Yeah. Okay. Disco. And do you want to present the project, the musical project? Petra Underwolf. Uh-huh. Yes, it's me meeting a whore 3 years ago. I'm Petra. I was performing, I think, 2 shows alone, and that's where I got to know Aurora. And I was telling my friends I really like to play with female drummer, and so we got together at this gig, and that's where we met, and we had a rehearsal, and that's where we knew we want to play together. So this is 3 years ago, and now we still totally click musically and also personally. But now we have a bass player, Martina, and that's how Petra Underwolf was born. Quindi dice Petra che lei ha suonato insomma alcuni show da sola, al solo, e uno di questi spettacoli ha incontrato Aurora, che infatti... Che è una batterista, è una chitarrista e Aurora è una batterista. Sì, e Petra stava già cercando diciamo una batterista, gli sarebbe piaciuto tanto, e poi è arrivato proprio Aurora, infatti, che la batterista che stava aspettando, e quindi hanno messo su il gruppo, poi dopo, questo era 3 anni fa, poi dopo... poco di tempo hanno inserito anche una bassista, Martina, e quindi questa è la formazione attuale di Petra Underwolf, è così che nasce il progetto. Sì, loro definiscono il loro sound post-grunge, singer, songwriter, jazz, quindi insomma praticamente c'è tutto dentro. Sì. Ok, quindi andiamo ad ascoltare la prossima traccia, che dillo tu che lo dici meglio, Petra. Che si chiama Disco. E loro sono? Petra Underwolf. Screaming. questa è Petra Underwolf, il pezzo si intitolava Disco, che è uno dei miei preferiti, devo dire, insomma, sia questo progetto Ex Best Friends, che non abbiamo ancora avuto modo di ascoltare, First Fatal Kiss, sono appunto le cose proprio che forse sono anche un po' più vicine alla mia sensibilità. Quindi mi sono piaciute tantissimo. Allora, vediamo se hanno, se sono riuscite a tirare fuori questa perfetta musicista. So have you thought about the profile of your perfect feminist queer musician? Yeah, first of all, perfect feminist rock musician, we think is not perfect. Mm-hmm. Yeah. And, prima di tutto non è perfetta. Sì. And she might be loud and proud and angry. Or quiet. Or shy. And shy. Or she maybe might be a he. Quindi, or whatever she wants to be. That's right. Quindi è fiera, è arrabbiata. Sì, e però anche tranquilla. Anche tranquilla, anche un po' timida. Mm-hmm. Può essere un po' come le pare, fondamentalmente. Può essere anche un lui. Può essere anche un lui. Può essere come le pare. Può essere proprio quello che le pare. Questa è la perfetta artista qui, feminist. E allora, noi siamo arrivate, insomma, in chiusura. Sono le 11.02, a seguire ci sarà Morfaglia, quindi, insomma, li vediamo già che trafficano dall'altra parte del vetro della sala. Quindi, insomma, ci apprestiamo a salutare le Aun Records, che sono state carinissime a stare con noi qui questo tempo, a raccontarci un po' la loro esperienza, a condividere con loro, con noi anche la loro bellissima energia. Questa è una cosa meravigliosa, è proprio la gioia di fare una cosa che a loro piace e che in qualche modo ha anche un significato profondo nelle loro e nelle vite delle persone che li incontrano. Quindi, insomma, è un bellissimo grazie che dobbiamo fare. Sì, thanks a lot for sharing with us the energy of your project. It's really inspiring to us. Thank you and many greetings and we are watching your political situation, yeah. Yeah. Yeah, and we hope the best. Okay. Well, the best. Sì, insomma, dice che, insomma, ci salutavano, ci ringraziavano e poi ci dicevano, insomma, stiamo guardando anche quello che succede politicamente nel vostro paese, quindi, insomma, facciamo tanti tanti cari auguri sostanzialmente. Ok, speriamo di intanto noi siamo in contatto con Aun Records, quindi vi daremo anche da Sisterhood is Blooming, da questo programma, le date che ci sono magari delle loro band, quindi quello che faranno in giro per spingervi appunto ad andare a vedere questa bellissima energia poi dal vivo, che è sempre la cosa migliore, e intanto le ringraziamo. Yeah, we're going to give, maybe you want to share the next dates of your releases or concerts, and so we can share them with the audience. Yeah, in next week we will play the Mattmeier Hacke, which are free of Aun Records. Mm-hmm. We'll play with Möström in Vienna, and quindi la settimana prossima suonano a Vienna con Möström, che è un progetto che non abbiamo ascoltato stasera, non abbiamo avuto tempo. This weekend there will be a very nice party in Vienna, Gender Crash, mm-hmm. which is two times a year, and a very nice big party, queer feminist party, and there Nora Noisen's band will play, for example, and McCabe from Edinburgh, who will do a split with Maya in autumn. And yes, Gender Crash is a good reason to come to Vienna. Okay. Really big party. Thanks for the tip. Ok, ci sarà praticamente, dicevano, questo festival che è il 2 marzo a Vienna, ed è anche, insomma, ci suggerivano una buona ragione per andare a Vienna in quei giorni, perché c'è questo festival, si chiama Gender Crash, dove loro suoneranno insieme ad altre band, quindi, insomma, vale la pena di andare e poi di godersi tutte queste performance. Allora, noi vi ringraziamo, siamo state benissimo, ci ha fatto piacere, insomma, e speriamo di vederci poi presto fisicamente, veramente, per rafforzare la nostra rete, magari in Italia. E quindi vi lasciamo con il brano dell'ultimo gruppo dell'etichetta, non è l'ultimo perché non abbiamo sentite tutte, ma questo qua si chiama Nora Noise and Band. Maybe you want to present the project to us, Nora Noise. Okay, yeah, we're saying goodbye, but we wanted you to introduce Nora Joy, Noise and Band, which is the last song we're gonna play tonight. Oh, okay. Nora Noise. It's a really great band. I really like them. Because they're really so much not mainstream and everything. Mm-hmm. And I love their lyrics, and they're really great. So Nora Noise and Band. Yeah. Yeah. Yeah, we went for Toy, which is my favorite actually. Abbiamo deciso di abbiamo deciso di farvi ascoltare appunto di Nora Noise and Band, il pezzo che si intitola Toy, e dicevo a loro che è una delle mie favorite. Loro dicevano che è una band grandiosa, quindi assolutamente dovete ascoltarla. Thank you very much for being with us tonight. Yeah, you too. Thank you. See you soon. Ok. Allora, niente. Io vi saluto. Ringrazio Eli che è stata qui con me. Che grazie appunto mi ha introdotta nel perfetto spirito di sorellanza, appunto, a delle persone meravigliose, delle donne meravigliose che hanno un progetto meraviglioso, non troppo lontano da noi. Quindi, insomma, è un'idea di andare a questo gender crash. Pensiamoci. Da seguire, da seguire. Grazie per essere state con noi. Sissy Who Is Blooming vi saluta. Vi ricordo che martedì prossimo non ci sarà il martedì femminista e lesbica autogestito, perché lo spazio del martedì in realtà sarà dalle 00 alle 24 dell'8 marzo, una 24 ore non stop che appunto vedrà avvicendarsi ai microfoni un po' tutte le voci della radio, ma anche altre voci internazionali da altre parti del mondo, dall'Europa, anche dall'Italia stessa, insomma, con le quali il martedì normalmente si confronta, lavora e dalle quali appunto con le quali condivide le lotte e le battaglie. Quindi insomma ci risentiamo a questi microfoni l'8 marzo. Magari tu non ci sarai perché sei in tour, Eli. Sì, con le danze. Ok, saremo in tour, sì. Beh, purtroppo. Purtroppo è un buon motivo per non esserci, insomma, è la scusa giusta. Sì. Allora, chiudiamo Sissy Who Is Blooming con appunto il pezzo presentato da Leon Records. Loro sono Nora Noise and Band e il pezzo si intitola Toy. Buonanotte. The lady first party didn't know what gender you could be. You told me that it doesn't matter, and the rest we gonna see. For today, I don't wanna be a lady. For today. Tonight I think that maybe I just wanna be your toy. Met you again with two friends at the dance floor and admired every move you intimate. I want to join the queer movement and to have a rest in getting laid. For today, I don't wanna be a lady. For today, I don't wanna be a boy. Just tonight. Just wanna be your toy. again in your bed. Exploration games with us and you and me. This research feels so much better than to behave the way society wants us to be.